che vorrà il diretto è bravo momento infame che dice ti attendo stasera alle nove Yeah. Oh. Diretta mia Parigi. Loris, ritorno presto. Subito, arrivederci. Come una volta in Russia.

son io che li uccisi. Son pronta, che mi sembro deliziosa. Grazie, non mi sfido, raggiungimi. Siete così leggera. Non è dentro i chilometri di vantaggio. È la costa. Il fossato nella notte affogato. parti per me, Martino Cenci. A quella voglia, la mare del Castiglio che mi segue sempre ovunque, ma l'avremo anche lei partito. Perché Fedora da me ti scosti, o non lasciarmi, sola mi resti, dammi la mano, o piangi con me. Oh! uccidesti mia madre e il fratello per vendetta del tuo giallino del crudo tuo vino ed ecco il tuo amore sirena da forca spiarmi e tradirmi Guarda, è la morte. Però, questa donna, il vero, sa tutto, calma! Thank you. 这里是歌舞剧场，今天我们欣赏的是意大利作曲家乔尔达诺的三部歌剧《费朵拉》，由莫纳科费比沃、高比卡夫奇利等演唱，意大利蒙特卡罗歌剧院合唱团乐团演出。感谢您的收听，欢迎继续关注北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 Stasera alle nove. Io mi domando ancora. come? Se tu mentissi, i me dubiti ancora, che mi do la certezza, lui stesso, lo divero. Ecco la prova, leggi. Anima mia, la sua scrittura. Piango, no, no. Thank you.